Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti da Frey, ben ritrovati su Van Loon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. Siamo in un febbraio, come abbiamo detto, di grandi produzioni editoriali e di grandi segnalazioni bibliografiche. La puntata di oggi non è da meno, perché andiamo a presentare in trasmissione un nuovo libro, Prove tecniche di integrazione, l'Italia, l'OECE e la ricostruzione economica internazionale, 1947-1953, edito da Franco Angeli nella collana Storia internazionale dell'età contemporanea nel 2017. Perché parlare di questo libro? Le risposte potrebbero essere tante, scartiamo però subito quelle banali. L'autore Roberto Ventresca, ricercatore della Fondazione Einaudi di Torino, è un amico di Van Loon, e questa la mettiamo da parte. Il libro verrà presentato a Bologna la prossima settimana, il 28 febbraio alle ore 16 presso il Dipartimento di Storia, Cultura e Civiltà in Piazza San Giovanni in Monte. Motivi più che sufficienti, questo, ma che abbiamo detto che sono banali. La cosa che invece ci convince di più è il fatto che dalla chiacchierata che faremo con Roberto Ventresca, ospite con noi in studio, è che il suo libro, Prove tecniche di integrazione, va ad analizzare, partendo dalle fondamenta, il processo di integrazione economica europea. Ventresca parte dagli anni della ricostruzione del piano Marshall, cercando di inquadrare quella che fu la dimensione dell'Italia in questo momento storico, in cui il paese iniziò a riallacciare i suoi legami internazionali dopo la Seconda Guerra Mondiale. Parlare di oggi di Europa ha molto significato, naturalmente, soprattutto adesso che ci stiamo preparando ad entrare nella dimensione delle elezioni, in cui parecchio si parlerà di Europa, e soprattutto lo si farà male. Noi qua con Van Loon cerchiamo di farlo sicuramente meglio. Prima di entrare in puntata e dare il benvenuto a Roberto Ventresca, ci ascoltiamo un po' di musica. È stato un po' difficoltoso trovare l'album di questa settimana, perché i dischi che parlano di Europa, se non consideriamo le produzioni volute dall'Unione Europea, che normalmente sono di musica classica lirica con un fine celebrativo, non c'è molto. Particolarmente calzante però ci è sembrato un disco particolare. Si tratta di Volk dei Laibach del 2006. I Laibach sono un gruppo che gli appassionati di musica industriale conoscono, perché è stato un importante gruppo di musica industriale elettronica slovena, conosciuto per il suo stile di musica rivolto ad un grande pubblico, ma soprattutto per le sue performance molto provocatorie. Così a naso ricorderebbe un po' quello che facevano i Disciplinati in Italia, in un altro genere musicale, però tenetelo presente come riferimento. Per darvi un esempio di questo discorso, è molto celebre un'orazione esaltante il nazionalismo serbo che i Laibach lanciarono nel corso di un concerto allo stadio della Stella Rossa di Belgrado, quando ancora la Jugoslavia era la Jugoslavia. Il discorso e la performance erano tutte ispirate all'estetica fascista e avevano un tono volutamente provocatorio. La cosa un po' preoccupante è che il pubblico non lo colse immediatamente come provocatorio e impazzì dall'entusiasmo, quindi venne preso come uno di quei momenti che prefigurarono la guerra nei Balcani. Negli anni il gruppo ha ammorbidito molto il suo stile e anche fortunatamente il suo gusto per la provocazione, e Volk, l'album che vi proponiamo, è sicuramente lungo questa linea. È un disco molto abbastanza orecchiabile che reinterpreta alcuni inni nazionali, raccontando così vari stati europei. Partiamo con Anglia. Save you all. Diamo finalmente il benvenuto a Roberto Ventresca. Ciao Roberto. Ciao. Ben trovato e benvenuto a Vallun. Grazie, grazie. Allora, partiamo subito con la presentazione del tuo libro Prove tecniche di integrazione, l'Italia, l'OECE e la ricostruzione economica internazionale 1947-1953. Allora Roberto, il tuo lavoro può essere letto, azzardando una prima interpretazione, come la volontà di andare a scovare il lato politico di processi che sono stati presentati, in un certo senso, poi questo magari lo vedremo nella seconda parte della nostra chiacchierata, come processi meramente tecnici, di impalcatura istituzionale, privi quindi di una connotazione politica. Sì. Questo è un discorso che è molto importante sulla tecnica, che per quello che riguarda l'Europa ha un peso molto particolare. Tu sei partito nella tua ricerca dagli interventi del piano Marshall, in cui l'Europa occidentale prese una piega politica molto, molto particolare. Sì. Ci puoi raccontare l'idea che è stata la base del tuo lavoro e il percorso di ricerca che hai fatto, e poi su che tipo di materiale hai lavorato? Sì, grazie. Allora, il libro è il frutto della mia tesi di dottorato, che ho discusso a Padova alla fine del 2015, e dunque il libro e le ragioni che ne hanno determinato la nascita e lo sviluppo rimandano alle domande che mi ero posto una volta conclusa la mia tesi di laurea all'interno del mio progetto di dottorato, che riguardava appunto il ruolo dei tecnici italiani all'interno di questa OECE, Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica, l'attuale OCSE sostanzialmente, che era stato un'organizzazione istituita proprio per gestire in Europa l'afflusso, la distribuzione degli aiuti del piano Marshall. Le domande iniziali erano in parte legate a una serie di interessi che si erano sviluppati lungo la mia tesi di laurea, che riguardava tutt'altri argomenti, ma che teneva al centro della sua trattazione il problema del rapporto tra tecnica e politica, o meglio tra politica e idee economiche. Ed è stato anche il frutto di una serie di problemi estremamente, diciamo così, cogenti anche per quello che è stato il mio percorso di studi. Io come te, insomma, siamo cresciuti all'università durante gli anni della crisi economica, e le problematiche sollevate dalla crisi economica post 2007-2008 sono state un po' al centro anche dei miei interessi intorno alle idee economiche. Dunque, andare a capire perché l'Europa fosse finita nel modo in cui era finita e sta finendo, o meglio si sta comportando anche oggi, era un po' l'idea iniziale che mi aveva spinto a interrogare, come dicevi tu prima, quali fossero le fondamenta di questo tipo di Europa, e dunque tornare al secondo dopoguerra, la ricostruzione economica nazionale e internazionale, gli inizi della guerra fredda, lo scontro bipolare, eccetera, eccetera, eccetera. Dunque questa è l'origine della ricerca. Per quanto riguarda il materiale, le fonti, al di là di una vastissima produzione bibliografica su questo tipo di argomenti, una produzione bibliografica che è sia storiografica che politologica che economica, ovviamente sono andato a cercare le mie fonti d'archivio soprattutto lì dove si collocano le istituzioni che sono state protagoniste dei fenomeni di cui parlo nel libro. E dunque, per quanto riguarda soprattutto il ruolo dell'Italia, il Ministero degli Affari Esteri di Roma, l'Archivio Centrale dello Stato, soprattutto per quanto riguarda le carte sulle politiche migratorie, di cui parlo a un certo punto nel libro, le carte della Banca d'Italia, le carte di una serie di personalità come Giovanni Malagodi, carte di Pierpaolo Dattorre conservate presso la Fondazione Gramsci Emilia Romagna. Dattorre è stato uno storico ravennate, uno dei primi o comunque dei più importanti storici italiani, che dalla metà degli anni 80 in poi è tornato a riflettere sulle questioni legate al piano Marshall da un punto di vista storico-economico comprendente anche però, come dire, l'orizzonte delle relazioni internazionali. E poi ho allargato, insomma, la mia ricerca a una serie di fonti straniere, francesi e inglesi, proprio perché Francia e Gran Bretagna all'interno dell'OECE rappresentavano i partner europei più importanti, dell'Italia, in quanto ovviamente paesi leader di un'Europa dove però, come insomma emerge dal libro e come emerge ed è già emerso da numerosi studi sull'argomento, un'Europa, dicevo, dove la presenza americana era fortissima, appunto perché l'idea di Europa unita, ben più che europea, è un'idea molto americana, se andiamo ad indagare, proprio in quanto la necessità di stabilizzare il continente dopo le macerie della Seconda Guerra Mondiale era una delle condizioni imprescindibili perché l'egemonia americana su scala globale potesse avere corso. Sì, naturalmente poi vabbè c'era la grande paura dei comunisti, esatto, quindi naturalmente esatto. L'America aveva necessità di muovere le sue carte. Certo. Ma cerchiamo, Roberto, un attimo di entrare un po' nel libro e nella tua ricerca. Hai parlato della partecipazione anche italiana, sì, a questo ECE e del ruolo che l'Italia cerca di ritagliarsi dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Quindi c'è l'Italia, paese sconfitto di fatto, cerca di reinserirsi in un panorama europeo che si delinea in un certo modo. Come si reinserisce l'Italia in questo discorso? E soprattutto, e poi qua ti lascio la palla, come e chi fa ricostruire questo ruolo dell'Italia? Certo, l'Italia appunto, come dicevi tu, esce sconfitta dalla guerra, ma con una definizione politico-diplomatica differente, cioè paese sconfitto ma come dire, co-belligerante. Perché ovviamente sconfitto, caduto il fascismo, caduta la monarchia, le vicende del periodo 43-45, la resistenza, l'Italia certo non poteva vantare la possibilità di sedersi al tavolo dei cosiddetti grandi e di avanzare pretese, tanto che non ne parlo direttamente nel libro, ma affronto tangenzialmente anche questa serie di problemi. Se l'Italia partecipa al processo di integrazione economica europea, partecipa in condizioni di oggettiva inferiorità al processo di integrazione atlantica, quello che poi diventerà il patto atlantico, partecipa in condizioni di inferiorità, quindi all'interno dei discorsi sulla difesa, le strategie militari, eccetera, eccetera, proprio perché rappresentava un alleato agli occhi di alcuni paesi europei, soprattutto Gran Bretagna, poco affidabile. Ma la necessità dunque di stabilizzare l'Europa e di stabilizzare un paese dove la presenza dei comunisti, come si era visto durante la resistenza, o comunque delle forze social comuniste, era notevole, rese necessario il coinvolgimento appunto di un'Italia democratica guidata ovviamente da una coalizione di forze moderato conservatrici, dunque il cosiddetto centrismo. Il 47, l'anno in cui faccio cominciare diciamo la mia trattazione, non è l'anno di nascita dell'OECE. L'OECE nasce nel 48, il 16 aprile 48, ma il piano Marshall viene annunciato un anno prima, quindi nel giugno del 47. Il 47 è anche l'anno della cacciata dei socialisti, esatto, in cui crolla l'alleanza di governo cosiddetta antifascista in Italia, così come crolla definitivamente l'alleanza antifascista a livello globale. USA e URSS chiudono i ponti, come dire, e inizia la guerra fredda. Dunque, per tornare alla tua domanda, chi come l'Italia è entrata e chi ha gestito questo rientro, per così dire. L'Italia entra all'interno dei discorsi sul processo di integrazione economica e poi di questo magari parleremo, anche politica europea, proprio in quanto la sua classe dirigente coglie, oltre che l'importanza, la necessità di inserire e di sviluppare un ruolo politico dell'Italia all'interno del quadro europeo, perché soltanto il quadro europeo veniva percepito come quel terreno in grado di fornire gli strumenti economici, politici, di legittimazione internazionale, di cui la coalizione centrista necessitava per poter tornare a sedersi appunto al famoso tavolo dei grandi, ma soprattutto per poter ricostruire una immagine politica riconoscibile dell'Italia dopo il ventennio fascista e dopo la Seconda Guerra Mondiale. La strategia con cui entra all'interno di questi negoziati, trattative, sarebbe molto lungo spiegare, a mio avviso è una strategia che potrebbe essere definita una nuova strategia, ovvero sia starci un po' a prescindere, proprio perché l'Europa era, come, così, era già percepita allora come una locomotiva alla quale agganciarsi quasi senza se e senza ma, e dunque inserirsi all'interno di una serie di discorsi che riguardavano soprattutto la liberalizzazione commerciale, che riguardavano la distribuzione dei fondi del piano Marshall, discorsi differenti ma legati, che riguardava la circolazione della manodopera, dunque le migrazioni. Era necessario essere presente a quei tavoli proprio per fare cosa? Da un punto di vista simbolico, creare un'immagine politica spendibile e riconoscibile. Da un punto di vista politico interno, concreto, risolvere i problemi dell'Italia. Cioè l'Europa veniva percepita come il terreno nel quale realizzare i programmi economici, economico-politici della coalizione centrista, quindi della Democrazia Cristiana e dei suoi alleati. Dunque, per fare solo un esempio, avendo adottato una prospettiva deflazionista, einaudiana, eccetera eccetera, non diciamo liberista perché sarebbe in realtà scorretto, ma in poche parole, avendo abbandonato l'obiettivo del pieno impiego, o meglio non avendo mai assunto l'obiettivo del pieno impiego, si colse nella valvola migratoria l'unico strumento con il quale alleviare gli indici di disoccupazione, come ha scritto una storica delle migrazioni italiane nel secondo dopoguerra, Andrina De Clementi. È un po' l'approccio di chi vuole curare il mal di testa con le decapitazioni. Sì, metafora piuttosto efficace. Piuttosto efficace, ma questo è solo un esempio. Per tornare agli uomini, verrebbe da dire gli uomini e le donne, ma per quello che ho potuto constatare, purtroppo, o comunque l'evidenza ci dice che di funzionarie, perlomeno per quanto riguarda la mia ricerca, non so se in altri ambiti sempre del processo di integrazione europea, almeno a livello, come dire, di gruppi dirigenti, di elite, di tecnici, questo possa essere vero, ma donne non ce ne sono o ce ne sono pochissime. Per quanto riguarda i protagonisti, insomma, di questo processo, si trattava ovviamente della classe dirigente dal punto di vista economico-amministrativo, quella che aveva governato la macchina burocratica dello Stato anche sotto il fascismo. Per quanto riguarda invece l'elite politica, certo, si tratta di un'elite politica nuova nella misura in cui era ovviamente differente, era ovviamente dissociata rispetto alla elite dello Stato fascista, ma che soprattutto all'interno, se pensiamo ad alcuni dei suoi protagonisti, De Gasperi, Democrazia Cristiana, Partito Liberale, Partito Repubblicano, Socialdemocratici, era una, come dire, elite politica democratica, certamente antifascista, ma ancorata appunto a una visione del ruolo dell'Italia che faceva fatica, o almeno che all'inizio fece molta fatica, a staccarsi da una visione nazionalista della nazione. Ci sarebbe tutto un discorso molto lungo da fare su quanto anche la cultura cattolica abbia contribuito a emancipare la cultura politica italiana e anche la cultura politica della Democrazia Cristiana, intesa come partito vertice della coalizione, da una visione nazionalista della nazione. E per certi versi, come dire, il progetto europeo è servito in parte anche a questo, dico in parte perché sono un po' d'accordo con... sono d'accordo, insomma, credo siano abbastanza fondate le concezioni storiografiche di chi, come Alan Millward, ha sempre sostenuto che il progetto europeo in buona parte abbia favorito in realtà un ritorno del protagonismo degli stati-nazione. Dunque, appunto, all'interno di questa cornice estremamente complessa, l'Italia cerca di ritagliarsi un ruolo che più delle volte le viene riconosciuto a fatica o che non è talmente tanto pesante e significativo da consentire al governo e ai suoi rappresentanti internazionali di ottenere i propri obiettivi. Allora, andiamo a sentirci un attimo una canzone, dopo Anglia ci sentiamo Germania, sempre da Folk, dell'album dei Laibach del 2006. Allora, siamo nelle ultime battute della chiacchierata intervista con Roberto Ventresca, l'autore di Prove tecniche di integrazione, l'Italia lo è, c'è la ricostruzione economica internazionale, che ci ha spiegato in maniera molto chiara delle cose che per noi normalmente sono abbastanza difficili. E Roby, ti chiedo un'ultima cosa, giusto una considerazione. Sì. Tu hai lavorato sul passato dell'Europa e dei processi di integrazione europea, che ci hai raccontato essere stati costruiti su delle basi che sono proprio di capitalistiche, di affermazione, certo, del capitale, certo, sostanzialmente. Cioè, cosa c'è di quel passato nell'Europa di oggi? E cioè, ha senso pensare di, come è stato fatto da alcuni, ad esempio mi viene in mente il caso greco, sì, dire c'è cioè, un'altra Europa possibile? Cioè, da come la metti è un po' difficile che un'altra Europa sia possibile. Mi rendo conto dell'impressione e per certi versi sono d'accordo con te. In una battuta, certo, l'impostazione... direi oltre che semplicemente capitalistica, mercatista e libero scambista dell'Europa, sì, è iscritta nel suo DNA, era iscritta nel DNA dell'OECE, anche se in maniera, come dire, un po' più sfumata, dato che le teorie che c'erano dietro il piano Marshall, soprattutto in ambiente americano, erano molto più vicine al New Deal rooseveltiano che a banalizzazioni libero scambiste che sarebbero poi invece emerse successivamente, soprattutto negli anni 70. Ma se pensiamo all'Europa di oggi, al giorno d'oggi, certo, noi siamo il frutto di dei decenni di integrazione economica e monetaria ispirati a principi, sì, possiamo definire appunto mercatisti, monetaristi, liberisti, con tutte le dovute eccezioni e i dovuti distinguo che in questa sede non è possibile sviluppare. È possibile un'altra Europa? Tu citavi il caso greco, il caso greco purtroppo ci ha dimostrato quanto sia violento il sistema politico ed economico su cui si regge questa Europa, perché un paese relativamente piccolo, perlomeno in termini di popolazione e di PIL, è stato brutalizzato, potremmo dire, oltre che isolato politicamente anche da parte di una certa sinistra europea stessa, che non ha, a mio avviso, supportato il progetto di Tsipras, che si fosse o meno d'accordo con tutte le sue l'impostazione del suo progetto. Credo che un'altra Europa sia possibile nella misura in cui si riesca a pensare a un nuovo rapporto e a una nuova natura di questo rapporto tra le istituzioni e gli attori politici di quella che oggi è l'Europa e dei suoi appunto addentellati nazionali, rifuggendo da sovranismi, rifuggendo da sia da visioni semplificate del rapporto appunto tra dimensione nazionale e sovranazionale, sia però respingendo nettamente l'attuale impostazione appunto liberista, mercatista su cui si regge l'Unione Europea. Reimmaginare i rapporti tra cittadini, istituzioni, poteri, redistribuire questi poteri, no? Cercare di appunto ideare forme nuove di istituzioni, anche forme nuove di sovranità, maggiori istituzioni e di prossimità rispetto a appunto i luoghi del vivere, del lavorare, dell'abitare. Immaginare una totalmente diversa relazione tra lo spazio europeo e la sua attraversabilità, dunque politiche migratorie. Immaginare una nuova missione per la Banca Centrale Europea, quindi non semplicemente stabilità monetaria e lotta all'inflazione, ma investimenti, ma tutele del lavoro, del welfare, delle persone, della cura, eccetera. Quindi, come dire, è modificabile nella misura in cui si riuscirà a riscrivere le fondamenta filosofiche su cui si basa il progetto europeo. Che questo succeda è un po' dubbioso perlomeno nel breve periodo, esatto, ma non si sa mai, come si suol dire. Bene, siamo arrivati al termine della nostra chiacchierata, ringraziamo Roberto Ventresca per essere per essere stato perfetto, per essere stato qua con noi. Troverete sul nostro sito internet www.radiovallun.info il podcast della puntata e naturalmente più qualche piccolo approfondimento e suggerimento di lettura. Ricordiamo naturalmente l'appuntamento del 28 febbraio ore 16 presso il Dipartimento di Storia, Cultura e Civiltà in Piazza San Giovanni in Monte per la presentazione del libro Prove tecniche di integrazione, edito da Franco Angeli nel 2017. Buon proseguimento di giornata a tutte e tutti da Frey e da Roberto. Ciao ciao ciao.